Si detto 700 persone, non si tratta di 700 ma di 50 persone che hanno semplicemente fatto una manovra per entrare nel proprio spezzone e superarne un altro. Siccome la gente era tanta, allora sono usciti da una strada laterale e sono rientrati dalla strada laterale per entrare nel loro pezzo di spezzone. Era un centro sociale di Torino e non c'è nessun al momento nessun gruppo incappucciato che si muove per il corteo. Per quanto invece riguarda la dichiarazione di stamattina, credo che se ci sia stata, io ero presente e diciamo lo slogan era via dannasseria, se c'è stato diciamo uno slogan di questo genere, che io non ho sentito perché ero in testa al corteo, per cui non so se è, cioè sicuramente comunque è un'idiozia che non ci appartiene, perché non ci appartiene la logica della morte. Noi siamo in piazza per impedire che, voglio dire, si sparga sangue in quella terra, qualsiasi tipo di sangue, soprattutto quello iracheno, per cui voglio dire, credo che la vostra posizione è chiara per il ritiro delle truppe, per cui su questo, ripeto, se c'è stata una dichiarazione, uno slogan di questo genere, è stata un'idiozia, che voglio dire, però rispetto alla giornata, credo che la giornata abbia dimostrato che questo movimento è stato in grado tranquillamente di fare tutte le cose che doveva fare.